Etichettami come pazzo se ritengo questo fottuto mondo in collasso. Nello spasmo di un attimo aumentano i conti in banca dei conti, e i miei conti non tornano se per la strada vedo ragazzi in rosso. Il re del furto commosso apre le braccia alla povertà per intascarne il profitto. Il complotto organizzato dai signori della guerra collezionano soldati di piombo che rifondi in un oro colato il mio oro, sperma, sangue e merda, vomitato dal disgusto che provo per la società fondata dall'irrazionalità di capi di stato che sparano al mondo di amore, patria e libertà. La mia libertà sta nell'essere messo al muro, fucilato e colpito dalla pallottola della legge, cado in terra inerme come un verme. Non ricerco la speranza in un libro, in un profeta che ci ha abbandonato tutti per guardare dall'alto il suo teorico mondo cadere a pezzi. Corriamo insieme tra i carboni ardenti per poi piano piano fonderci, unirci le ceneri che diedero inizio a tutto. È il turno del lutto, nella notte delle messe nere facciamo la fila al patibolo, ci tuffiamo nelle nostre bare ricoperti da mazzi di fiori marci appassiti. Dedico i miei versi di odio al primo cittadino che con i suoi trucchi ci ha messo in ginocchio a raccogliere pezzi di dignità sparsi nei campi. Accendo la fiamma della rivolta e do fuoco alla mia bandiera che ci ha portato a piangere i caduti in eterni lutti tra vari soprusi e abusi. Verso l'ultima lacrima per un mondo al declino scordato da chi con l'avidità ha messo un punto a questo delirio, incatenando la libertà. Raccogli i tuoi resti e poi scappa tra i silenzi. Nella valle dei tormenti solo mi ingabbia che conti bei momenti, riflessi, specchi a pezzi per incidere nelle braccia tali di coscienza. Affonda la lama e finisce la speranza, il sangue si espande ma la cicatrice resta. E poi pensa come finire i tuoi giorni con una ghimpelle. Nell'inverno più freddo ci si consola con una soluzione drastica e l'opinione è solo una: di addio alle tue pene e al destino che verrà in conflitto con la tua libertà, che ti porterà a dividere i tuoi sbocchi di sangue dalla realtà. Rincorro la morte col colpo al collo, non la raggiungo perché troppo codarda per dare a conforto a questo corpo distrutto con il pretesto di un aborto mentale che mi porti a non pensare di trovare una strada buona e giusta per salvarmi da ogni male, per poi ritrovare quella voglia di continuare a respirare aria malata che ci penetra in profondità, un gas esilarante che la pazzia porterà senza più logiche, affonda la verità. Schiavi dell'industria, schiavi del consumo, assolutiamo il destino con il cervello spapolato sopra uno slogan in un muro che dice non buttare via il tuo futuro. Fanculo a voi e vostri canti diabolici, diavoli codardi, per quanto possano essere dure queste catene non saranno i vostri giochi a fermarci. Colpiscimi pure, ma quando la lama sarà rivolta dalla parte giusta cesserà la pietà e non avrai neanche a fianco il tuo dio che ti aiuterà. Raccogli i tuoi resti, poi scappa tra i silenzi. Nella valle dei tormenti solo mi ingabbia che conti bei momenti, riflessi, specchi a pezzi per inciderne nelle braccia tali di coscienza. Affonda la lama e finisce la speranza, il sangue si espande ma la cicatrice resta. E poi pensa come finire i tuoi giorni con una ghimpelle. Nell'inverno più freddi ci si consola con una soluzione drastica e l'opinione è solo una: di addio le tue pene e al destino che verrà in conflitto con la tua libertà, che ti porterà a dividere i tuoi sbocchi di sangue dalla realtà. Come un tossico con la sua ultima pera percorre il labirinto del fauno che con i suoi inganni mi ha portato all'ultima cena a bere in calici di sangue, osservando con rimorso il mio ultimo tramonto. E con il calare della sera aumentano le ombre, il nascondiglio degli infami vampiri che escono dalle tombe per succhiarti la linfa vitale in un cielo dentro una stagnola. Aspettiamo l'ultima bomba e la morte ora è sola. Un brindisi alla morte con le dita insanguinate, afferra la sua falce per donarci pace. Nelle notti bianche ci afferra e poi tace, si scorta le deriva di fiumi rossi a mostrarci letti in fosse. Si salutano i bei propositi nella valle dei non morti, percorsa con occhi chiusi evitando il ricordo dell'ultimo momento trascorso, a disegnare cerchi nel vuoto in un tempo scaduto. Un brindisi alla morte con le dita insanguinate, afferra la sua faccia per donarci pace. Nelle notti bianche ci afferra e poi tace, ci scorta la deriva di fiumi rossi a mostrarci letti infossi. Si salutano dai propositi nella valle dei non morti.